è comprensibile che difendessero la centralizzazione gli operai dell'Est, più stabili e legati ad un tipo di lavoro nelle grandi aree industriali. Gli operai dell'Ovest, invece, volevano una struttura più decentralizzata, dato che il loro lavoro si svolgeva spesso a diverse miglia da un centro abitato ed era solitamente molto precario. Ma malgrado le differenze tra le due componenti, c'era un'unità di fondo determinata dal fatto che ambedue erano costituite da operai non qualificati. Su queste basi il numero degli iscritti crebbe costantemente, da 9.100 nel 1910 a 12.834 nel 1911 e quindi a 25.000 nel 1912. Le principali componenti degli iscritti agli IVV erano all'est, nelle grandi aree industriali, costituite da immigrati dell'Europa meridionale e dai paesi slavi, che lavoravano nelle industrie tessili, siderurgiche, meccaniche, automobilistiche e della gomma. L'altra componente era quella degli stati dell'ovest, formata da operai stagionali dell'industria del legno o agricola, generalmente americani molto mobili e disposti a lasciare un lavoro per andare in cerca di un altro senza famiglia e senza dimora. Nel 1909 gli IWW iniziarono la pubblicazione di due giornali settimanali, l'Industrial Workers, stampato a Spokane, e Solidarity, stampato a Newcastle in Pennsylvania. Fra il 1909 e il 1916 gli IWW puntarono molto sull'azione diretta, cioè l'insieme di metodi di lotta che permettono ai lavoratori di intervenire autonomamente per modificare la propria condizione. I metodi dell'azione diretta, dicevano, abituano la classe operaia a contare sulle proprie forze piuttosto che sulle trattative tra i capi dei sindacati e dei padroni, sui fondi di sciopero, sui provvedimenti legislativi e sulle riforme. Inoltre, formalizzarono l'adozione del sabotaggio come tattica di lotta, intendendolo come resistenza passiva o sciopero sul posto di lavoro. Gli IWW credevano che il sabotaggio fosse una misura di guerra contro i padroni e che educasse gli operai a rompere con il sacro rispetto per le proprietà private, e fu largamente pubblicizzato dai giornali degli IWW con i due simboli del gatto nero e del sandalo di legno. Ascoltiamoci quindi una canzone sul sabotaggio, spesso cantata dagli Wublis, scritta da Ralph Chaplin, sulla musica di Dixie, dal titolo Sabo Tabby Kitten. Step on things that the boy has bound to come with. Nel 1909 gli IWW organizzarono i lavoratori della Pressed Steel Car Company a McKees Rock, in Pennsylvania. Quello di McKees Rock era uno dei centri più importanti per la produzione dell'acciaio. La mattina del 12 luglio 1909 un gruppo di lavoratori si riunì per discutere delle paghe ricevute. I salari erano stati ridotti. Al rifiuto dei dirigenti di ricevere una delegazione iniziò uno sciopero spontaneo. Il 15 luglio tutti gli operai della Pressed Steel Company erano in sciopero. Fu costituito un comitato di sciopero. Ungheresi, svizzeri, russi, italiani e tedeschi impressero una svolta dura e militante allo sciopero. Vennero chiamati dei crumiri, reclutati direttamente a Ellis Island, dove arrivavano i nuovi immigrati promettendogli un lavoro pulito, ma questi si ribellarono e si rifiutarono di prendere il posto degli scioperanti. Lo sciopero coinvolse 8.000 lavoratori di 14 nazionalità diverse. Ci furono violenti scontri con la polizia di Stato, i cosiddetti cosacchi. Il 30% degli operai erano nati negli Stati Uniti, ma da genitori stranieri, e il 43% erano stranieri provenienti in gran parte dall'Europa centrale e orientale. Uno scioperante venne ucciso dai cosacchi. Allora gli scioperanti notificarono alla polizia che per ogni scioperante ucciso avrebbero fatto fuori 3 cosacchi. Il bilancio finale fu di 13 morti e centinaia di feriti. Ma alla fine, dopo 2 mesi di lotta, gli operai vinsero, ottenendo un aumento salariale del 5% e un altro 10% dopo 60 giorni e la riassunzione di tutti gli scioperanti licenziati. Ma il 10 settembre, quando gli operai rientrarono in fabbrica, trovarono i crumiri e i poliziotti privati assunti come capisquadra. Quando arrivò la busta paga, gli aumenti promessi non c'erano. Il 15 settembre iniziò uno sciopero bianco e il comitato di agitazione incontrò i padroni che accettarono, questa volta veramente, le condizioni imposte dagli operai su crumiri, caposquadra e salari. Il 16 settembre tornarono al lavoro. Subito dopo McKees Rock, gli IWW organizzarono un altro sciopero a Hammond, in Indiana, alla Standard Steel Car. Il 3 febbraio, dopo 20 giorni di lotta, i padroni cedevano alle richieste degli operai. In un articolo dell'International Socialist Review del 1910 possiamo leggere: «Quando l'esercito ed i Pinkerton devono raggiungere qualche posto dove sono avvenuti disordini sul lavoro, non vanno a piedi, viaggiano in treno. Chi fa funzionare questi treni? Degli operai, molti dei quali hanno in tasca la tessera di un sindacato. L'esercito non si nutre da solo, né da solo si rifornisce di vestiti, armi e munizioni. Chi veste, nutre, arma e trasporta l'esercito, mettendolo in grado di sparare sugli operai in sciopero? Perché lo fanno? Perché non sono correttamente organizzati. Seppure sono organizzati, lo sono i miseri sindacati di mestiere che predicano l'identità di interessi tra capitale e lavoro, invece che secondo grandi linee industriali, animati dallo spirito di solidarietà della classe operaia. 2 settimane dopo iniziò uno sciopero alla Bethlehem Steel. Inizialmente si mobilitarono i meccanici che avevano visto aumentare il proprio orario di lavoro di 3 ore senza aumento del salario e costruirono un comitato di sciopero. Schwab, il padrone delle acciaierie, licenziò i 3 operai che erano andati a trattare. Scesero quindi in sciopero tutti gli altri lavoratori delle acciaierie di Bethlehem. La FL, che inizialmente aveva appoggiato lo sciopero, iniziò a rivedere le sue posizioni. A questo punto un gruppo di operai polacchi, ungheresi e italiani si rivolsero agli IWW, che a differenza dei sindacalisti della FL parlavano la loro lingua e che riportarono l'esperienza vincente di McKees Rock. Con gli IWW furono organizzati picchetti formati da 2.000 uomini. La FL fece di tutto per boicottare lo sciopero e riuscì a convincere i lavoratori che così si sarebbe giunti a una più rapida conclusione della vertenza. Quindi, purtroppo, il 18 maggio lo sciopero si concludeva con l'accettazione da parte del comitato di sciopero delle condizioni imposte da Schwab. Ascoltiamoci ora Working Men Unite, una canzone il cui testo dice: «Uomini, lavoratori, unitevi. Dobbiamo ingaggiare una lotta per renderci liberi dalla schiavitù e dalla tirannia capitalista. Questa lotta non è invano, abbiamo un mondo da guadagnare». Conditions, they are bad, and some of you are sad. You cannot see your enemy, the class that lives in luxury. You working men are poor, will be forevermore. As long as you permit the few to guide your destiny, shall we still be slaves and work for wages? It is outrageous, has been for ages. This earth by right belongs to toilers, and not to spoilers of liberty. The master class is small, but they have lots of gall. When we unite to gain our right, if they resist, we'll use our might. There is no middle ground. This fight must be one round. To victory for liberty, our class is marching on. Shall we still be slaves and work for wages? It is outrageous, has been for ages. This earth by right belongs to toilers and not to spoilers of liberty. Working men unite, we must put up a fight to make us free from slavery and capitalistic tyranny. This fight is not in vain, we've got a world to gain. Will you be a fool, a capitalist tool, and serve your enemy? Shall we still be slaves and work for wages? It is outrageous, has been for ages. This earth by right belongs to toilers and not to spoilers of liberty. Gli Wobblies nel 1909 iniziarono anche le lotte per la libertà di parola, affrontando l'incarcerazione di centinaia di membri. Le prime di queste azioni avvennero prima a Missoula, nel Montana, e poi a Spokane, nello stato di Washington. Con ordinanze locali governative veniva spesso negato agli IWW il diritto di tenere comizi nelle strade e nelle piazze con motivazioni di ordine pubblico e minacciandoli, in caso di resistenza, di arresto. La lotta iniziava con l'arresto di un iscritto agli IWW che faceva il suo comizio su una cassetta per il sapone, che veniva arrestato. Subito un altro Wobbly prendeva il suo posto, e questo fino a quando le prigioni della città non si riempivano completamente. Quindi, grazie alle manifestazioni della popolazione che sostenevano il diritto di parola e data l'insostenibilità per le amministrazioni locali dei costi della carcerazione, gli Wobblies venivano scarcerati, decretando così il ripristino della libertà di parola. Nel 1910 le campagne per la libertà di parola continuarono con mobilitazioni in tutto l'Ovest. Agli Wobblies venivano mandati messaggi dalla sede centrale degli IWW chiedendo che coloro che fossero in condizioni di farlo accorressero dove si svolgeva lo scontro. Nella maggior parte dei casi le lotte per la libertà di parola ebbero successo e le ordinanze poliziesche furono sospese. Non furono comunque manifestazioni tranquille, ma lotte molto dure. A Spokane, ad esempio, la lotta durò più di un anno. Le polizie locali, per fronteggiare gli Wobblies, cominciarono ad organizzare squadre armate che accompagnavano gli arrestati fuori dalle città dove venivano torturati. Lo scontro più duro fu quello di San Diego, in California, nel 1912, dove gli Wublis affrontarono squadracce di vigilantes armati che picchiavano e torturavano i militanti. Un dimostrante fu ucciso a freddo ed un altro morì in seguito a torture. Alla fine però riuscirono ad ottenere piena libertà di parola, di riunione, a riaprire le loro sedi e riprendere la pubblicazione dei loro giornali. A proposito della marcia per raggiungere Fresno, fu riportato un resoconto su Solidarity dell'8 aprile 1911. Ne riporto alcuni stralci. La sera del 13 febbraio 47 persone lasciavano Seattle diretti a Fresno per andare ad aiutare i compagni operai che stavano lottando per il diritto di parola nelle strade di quella città. Altri si unirono lungo la strada, così lasciando Portland il 15 eravamo in 112. Ci siamo organizzati ed abbiamo eletto un comitato esecutivo con poteri direttivi, un segretario tesoriere che ricevesse e sborsasse il denaro, un comitato per i treni che aveva il dovere di informarsi sui migliori treni da prendere, sugli orari, eccetera. La sezione più importante di tutte nella nostra organizzazione è stata senza dubbio la divisione ospedaliera. L'organizzazione ospedaliera includeva 10 uomini che aiutavano le retrovie, così che nessuno divenisse esausto per mancanza di aiuto. Ad Ashland, in Oregon, il 17 febbraio, la ferrovia Southern Pacific ci proibì di continuare il viaggio e così cominciò la memorabile marcia che terminò a Chico, in California, dove ricevemmo il primo avviso ufficiale che la lotta era stata vinta. Il 7 ci sciogliemmo, giacché la nostra presenza non era più necessaria. Tenevamo riunioni in tutte le città lungo la via e ci guadagnammo la simpatia e l'assistenza dei cittadini che ci donavano denaro, vestito e cibi. In ottobre Ben Williams, il direttore di Solidarity, scrisse all'International Socialist Review. Nel dicembre del 1911 il Consiglio Municipale di San Diego, in risposta alle sollecitazioni dei commercianti, aveva adottato un'ordinanza che vietava i comizi di strada nel centro della città. Il giorno in cui la legge entrò in vigore, 40 oratori furono arrestati. Presto se ne aggiunsero altri 100, intasando le prigioni. La polizia organizzò un pattugliamento lungo il confine della contea per respingerli. La battaglia durò 8 mesi, nei quali molti furono catturati e picchiati. In città gli idranti furono usati contro coloro che tentavano di parlare ai loro raduni. Infine, in uno scontro con la polizia, uno Wobbly fu ucciso e 2 poliziotti restarono feriti. Le battaglie per la libertà di parola proseguirono fino al 1916. Tra il 20 e il 28 settembre 1911 si tenne il 6° congresso degli IWW, in cui prevalsero le posizioni centraliste delle componenti dell'est degli Stati Uniti. Nel 1912 gli IWW guidarono lo storico sciopero dei tessili a Lawrence, nel Massachusetts, coinvolgendo 25.000 operai, principalmente immigrati e donne, che protestavano contro i tagli salariali e le condizioni disumane. L'introduzione di nuovi macchinari nell'industria tessile aveva portato al taglio dei tempi e i tessitori a doversi occupare contemporaneamente non più di 2 telai, ma di 6 ed in alcuni casi addirittura 12. Inoltre, nel gennaio 1912 era entrata in vigore una legge statale che istituiva la settimana lavorativa di 54 ore e gli imprenditori imposero una corrispondente riduzione dei salari. Lo sciopero si diffuse in diverse fabbriche di Lawrence. Degli 85.000 abitanti di Lawrence, più di 35.000 erano operai dei cotonifici. Il comitato di sciopero fu organizzato con rappresentanti di 28 nazionalità diverse. Su uno striscione portato dalle donne in sciopero c'era scritto «Vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose». Questo slogan diventerà uno dei più famosi delle lotte in tutto il mondo fino ai nostri giorni. Il 13 gennaio più di 20.000 lavoratori erano già in sciopero. A Lawrence arrivarono Joe Hector e Arturo Giovannitti, direttore del giornale socialista in italiano Il Proletario, entrambi degli IWW. Nonostante la dura repressione e il tentativo di incriminare i leader con false accuse di terrorismo ed omicidio dopo il ritrovamento di esplosivi, lo sciopero si concluse dopo 9 mesi di lotta con la vittoria dei lavoratori. Il 19 gennaio, infatti, furono scoperti depositi di dinamite in 3 posti diversi: il piazzale di un cimitero, una sartoria e un negozio di scarpe vicino a una tipografia dove Hector riceveva la posta. Vennero accusati gli scioperanti e molti furono arrestati. In seguito fu provato che le bombe erano state piazzate dal coroner, fedele ai padroni delle fabbriche, che fu arrestato e condannato e multato di $500. Durante una manifestazione, il 29 gennaio, fu uccisa la scioperante Annie Lopizzo. Non fu mai stabilito chi avesse sparato il colpo che uccise la ragazza, ma Ettore e Giovannitti furono arrestati, imputati di aver incitato e procurato la commissione del crimine a compimento di una cospirazione illegale. Nonostante 19 testimoni oculari avessero visto un poliziotto uccidere la ragazza, furono trattenuti come complici istigatori non presenti sulla scena. Il caso Hector Giovannitti si trascinò fino all'autunno del 1912. Sarebbero senza dubbio stati condannati con false prove se non fosse stato per il fatto che i padroni delle fabbriche tessili del Massachusetts temevano uno sciopero generale degli IWW in tutti gli stabilimenti dello Stato. Il 23 novembre sia Hector che Giovannitti furono prosciolti da ogni accusa e rilasciati. Una mattina, durante un picchetto, un giovane siriano che faceva parte della banda musicale degli scioperanti fu pugnalato alla schiena con una baionetta da un poliziotto e morì poco dopo il ricovero in ospedale. Dopo l'arresto di Ettore Giovannitti, arrivarono a Lawrence Bill Haywood Troutman ed Elizabeth Flynn. Fu adottata anche la tattica di inviare i bambini degli scioperanti fuori città durante lo sciopero, ma la polizia attaccò donne e bambini alla stazione ferroviaria. L'idea dell'esito dei bambini durante le lotte nacque sia dalla consuetudine di mandare i bambini presso parenti e conoscenti durante la settimana lavorativa, sia dall'esperienza dei sindacalisti rivoluzionari italiani presenti a Lawrence, che avevano praticato questa tattica durante alcuni scioperi nel Parmense e a Piombino. Nella sua monumentale opera in 11 volumi, History of the Labor Movement in the United States, riporta una testimonianza sullo sciopero. Ne riporto alcuni stralci. Hector decise di dare a tutte le nazionalità un'eguale rappresentatività in tutte le fasi della conduzione dello sciopero. Fu formato un comitato generale di sciopero di 60 membri. Questo comitato costituiva la direzione dello sciopero, aveva un'autorità completa nella sua conduzione e dipendeva solo dal mandato popolare degli scioperanti. Tutte le fabbriche in sciopero e tutte le parti che lo componevano, tutti i tipi e fasi di lavoro, vi erano rappresentati. Il principio dell'eguaglianza fra le varie nazionalità fu seguito anche nei sottocomitati eletti. Aiuti, finanze, pubblicità, investigazione, organizzazione. Così ogni nazionalità partecipava attraverso una propria organizzazione alla conduzione dello sciopero ed una completa unità si otteneva attraverso il Comitato Generale. Hector non lasciò niente al caso. Capì che si rendeva necessario rimpiazzare ciascuno dei 60 uomini nel caso che per malattia o d'arresto gli fosse impossibile partecipare al comitato. Quindi ciascun eletto aveva un successore pronto a sostituirlo in ogni momento. Furono prese precauzioni contro l'infiltrazione di agenti dei padroni nel comitato. Ciascun gruppo nazionale aveva diritto ad un voto nel comitato di sciopero e poteva, attraverso referendum popolare, dare istruzioni ai propri rappresentanti su come votare. Il potere supremo di decisione per tutte le questioni importanti era lasciato alle assemblee di massa degli scioperanti, uomini, donne e bambini. La mobilitazione e gli scioperi si spostarono poi a Bedford, Little Falls e a Lowell. I padroni, per tenere lontani gli Wobblies, cedevano alle richieste operaie. Il 3 aprile il giornale Detroit News riferiva che erano ben 438.000 i lavoratori tessili che avevano beneficiato indirettamente dello sciopero di Lawrence. Ed ora ascoltiamoci There is a Power, scritta da Joe Hill, il più famoso cantatore degli IWW, nell'esecuzione di Max Paulson. Wouldn't you have freedom from wage slavery? Then join in the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free? Then come do your share like a man. There is power in a band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, an industrial union grand. Would you have mentions of gold in the sky and live in the shack way in the back? Would you have wings up in heaven to fly and starve here with rags on your back? There is power in a band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, an industrial union grand. If you had enough of the blood of the lamb, then join in the grand industrial band. If for a change you would have eggs and ham, then come do your share like a man. There is power in the band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, an industrial union grand. If you lack sluggers to beat off your head, then don't organize or unions despise. If you want nothing before you are dead, shake hands with your boss and look wise. There is power in a band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, an industrial union grand. Come all ye workers from every land, come join in the grand industrial band. Then we our share all this earth shall demand, come on do your share like a man. There is power in the band of working men when they stand hand in hand. That's a power that must rule in every land, an industrial union grand. Al congresso del Partito Socialista che si svolse dopo la vittoria dello sciopero di Lawrence parteciparono 293 delegati, di cui solo 30 erano operai non qualificati o semiqualificati. Il resto erano giornalisti, avvocati, sindaci, dottori, preti, imprenditori. Ecco come Bill Haywood ricorda l'avvenimento. A questi leaders ed ai loro lacchè presenti al congresso sembrò che fosse giunto il momento di emendare la Costituzione del Partito Socialista, cosa che fecero con l'articolo 2, sezione 6, che prevede: ogni membro del partito che si oppone all'azione politica o propone il crimine, il sabotaggio o altri metodi violenti come armi della classe operaia nella sua lotta per l'emancipazione sarà espulso dal partito. Bill Haywood, quindi, venne rimosso dal suo posto nel Comitato Nazionale Esecutivo sulla base di questo emendamento. Leggo una parte del verbale della testimonianza resa da Bill Haywood alla Commissione per le Relazioni Internazionali di Washington. Il commissario Weinstock interroga Bill Haywood. Vi è una radicale differenza tra gli IWW e i socialdemocratici, signor Haywood? Sì. I socialdemocratici vogliono che lo Stato possegga tutte le industrie? Sì. E gli IWW, al contrario, come avete spiegato, propongono che le industrie non siano possedute dallo Stato, ma dagli operai? Dagli operai. Indipendentemente dallo Stato? Indipendentemente dallo Stato. Allora non vi sarà qualcosa come lo Stato o gli Stati. Le industrie prenderanno il posto di quello che sono gli Stati ora esistenti. La proprietà dello Stato non potrà mai portare al socialismo. Non è un passo verso il socialismo. In essa non vi è nulla di socialista, perché tutto il governo politico è amministrazione dall'alto. Nel 1913 gli IWW diressero lo sciopero dei lavoratori tessili a Paterson, nel New Jersey, coinvolgendo 50.000 operai. Durante lo sciopero furono effettuati oltre 1.800 arresti e ci furono violenti scontri con le milizie private che uccisero l'operaio Valentino Modestino. Purtroppo, lo sciopero si risolse in una sconfitta dovuta principalmente alla frammentazione del fronte operaio e alla rottura della solidarietà dei lavoratori di Setafine che interruppero lo sciopero. Elizabeth Gurley Flynn, una delle dirigenti degli IWW, in un discorso a New York il 31 gennaio 1914 disse: «Lo sciopero di Paterson si divide in due periodi. Il primo periodo dal 25 febbraio, data dell'inizio dello sciopero, al 7 giugno, data dello spettacolo sullo sciopero a New York. Il secondo da questa data al 29 luglio, quando tutti, uomini e donne, erano tornati al lavoro. Avevamo a che fare con tre elementi nello sciopero di Paterson: i tessitori della seta a trama grossa ed i tintori, che erano non organizzati e per così dire erano quasi materiale vergine e potevano essere facilmente mobilitati e facilmente stimolati alla lotta. Ma d'altra parte c'erano i tessitori di seta fine, americani e conservatori, che avevano un'esperienza precedente di tipo artigianale, che avevano appartenuto per 30 anni a singoli craft unions. Si convinsero a scioperare a causa della brutale persecuzione dei capi dello sciopero e non per una spinta interna a cui non potevano resistere. La situazione industriale di Paterson presentava le sue difficoltà ed i suoi vantaggi e nessuno li capì rapidamente come noi. C'era la difficoltà della presenza di 300 fabbriche senza un trust, senza una società che controllava la bilancia del potere su cui concentrare l'attacco. Il primo periodo dello sciopero significò due cose: persecuzione e propaganda. Il nostro lavoro consisteva nell'educare e stimolare. Educazione non è una conversione, è un processo. Nello sciopero di Paterson per i primi 4 mesi non c'è stato un crumiro, tutte le fabbriche erano ermeticamente chiuse. È stato proprio nello sciopero di Paterson, fra tutti gli scioperi del 1913, che Haywood ha detto: «Se la polizia non abbandona la violenza contro gli scioperanti si armeranno e combatteranno». In questo caso la violenza è necessaria e nessuno sarebbe così stupido da dire che i minatori del Michigan, della West Virginia o del Colorado non hanno il diritto di prendere i fucili e difendere le mogli, i bambini e se stessi. Ora noi possiamo parlare di sciopero a Paterson, di sciopero intermittente, di sabotaggio, perché la gente sa che non abbiamo paura di un lungo sciopero, sa che non siamo dei cordardi, che abbiamo fatto insieme l'esperienza di un lungo sciopero ed abbiamo imparato con loro che il lungo sciopero non è stato un successo. In altre parole, in questi 6 mesi hanno guadagnato un'esperienza che non dovranno mai più ripetere. Il 28 luglio tutti erano tornati al lavoro, malgrado il fatto che la convinzione generale era che fossimo alla vigilia di una vittoria. Penso che se gli scioperanti avessero saputo resistere un poco più a lungo, con ogni mezzo possibilmente, con il denaro che ci è stato negato, avremmo potuto vincere lo sciopero di Paterson. Noi avremmo vinto perché i padroni avevano perduto gli ordini di primavera, gli ordini estivi, gli ordini autunnali ed ora correvano il rischio di perdere quelli invernali, un intero anno di lavoro. Durante lo sciopero di Patterson era in corso la rivoluzione in Messico e gran parte dei membri degli IWW appartenenti alle sezioni della California del Sud passarono il confine e si unirono ai rivoluzionari messicani. Il ruolo delle donne negli IWW, anche nelle posizioni di maggior responsabilità, è stato di gran lunga superiore a quello di ogni altra organizzazione operaia del tempo. Gli IWW ritenevano che il capitalismo stesso avesse sottratto la donna alla schiavitù domestica e resa parte del mondo della produzione e consideravano questo sviluppo come irreversibile. Nello stesso anno gli IWW sono attivi anche nell'industria della gomma ad Akron, nell'Ohio, dove fu organizzata una mobilitazione contro le innovazioni tecnologiche che avevano portato all'aumento dei ritmi di lavoro e all'espulsione di manodopera. Fra il 1911 e il 1914 gli IWW svolsero attività di organizzazione nel settore delle costruzioni siderurgiche e meccaniche nel distretto di Pittsburgh. Nel 1914 Bill Haywood diventò segretario generale e tesoriere degli IWW. Tra il 1913 e il 1915 ci fu un enorme aumento della disoccupazione in seguito alla crisi economica che si risolse solo con il boom dell'industria bellica che si sviluppò negli Stati Uniti in seguito alla Prima Guerra Mondiale. A Wheatland, nel 1913, uno sciopero dei raccogliatori di luppolo si trasformò in tragedia quando 11 uomini armati caricarono una riunione pacifica di uomini, donne e bambini causando 4 morti, 2 poliziotti e 2 lavoratori. Su Solidarity del 3 gennaio 1913 venne pubblicato un articolo su questo sciopero, ne riporto alcuni stralci. I fatti di sangue di Wheatland sono stati importanti perché hanno riunito l'American Federation of Labor, il Partito Socialista e gli IWW in un unico solido schieramento operaio pronto a combattere per il diritto di sciopero. Contro i lavoratori erano schierati il Procuratore Generale dello Stato della California, la Barnes Agency, lo Hop Growers Association, i proprietari terrieri della California, uomini d'affari piccoli e grandi ed il procuratore della Yuba County, Edward B. Stanwood. Per l'esercito di guardie private di Barnes, qualcuno deve aver pagato non meno di $100,000. I lavoratori invece ne hanno raccolti meno di 2,000 per difendere il loro diritto di sciopero. Con una diffusissima pubblicità menzognera, i Darst Brothers misero insieme 2.300 uomini, donne e bambini per raccogliere il loro luppolo la scorsa estate. Avevano persino promesso un picnic ai lavoratori. In realtà, questi ottennero posti per dormire peggiori di quelli dei porci, al prezzo di 75 centesimi la settimana, 8 gabinetti in tutto come servizi igienici, proibizione di portare acqua nei campi dove c'era una temperatura misurata dall'ispettore di sanità dello Stato di più di 45 gradi. Era proibito portare acqua perché i Dust Brothers avevano appaltato il privilegio di vendere limonata al loro cugino James Darst, che offriva ai raccogliatori assetati acido acetico ed acqua a 5 centesimi il bicchiere. I Dust Brothers gestivano uno spaccio e non permettevano a nessuno di recarsi a vendere i propri prodotti nel campo. I salari raramente arrivavano sopra il dollaro al giorno. Alle 17:30 di domenica 3 agosto 1913 i raccoglitori erano riuniti su di un terreno preso in affitto da Darst. Dick Ford, che parlava in qualità di presidente della riunione, prese un bambino dalle braccia della madre e disse: «Non è tanto per voi stessi che state combattendo, ma perché questo piccolo non debba più vedere le condizioni che oggi esistono in questa tenuta. rimise il bambino fra le braccia della madre quando vide 11 uomini armati arrivare su 2 automobili verso il luogo della riunione. I raccoglitori intonarono una canzone. Gli uomini armati caricarono questi uomini riuniti. Lo sceriffo George Voss ha ammesso, sotto giuramento, quando arrivai la riunione era ordinata e pacifica. La folla si aprì per far entrare lui ed il suo seguito. Uno dei suoi uomini, Lee Anderson, colpì Dick Ford con un manganello, facendolo cadere, e poi sparò un colpo ed un altro. Harry Dakin sparò a sua volta. Quando Dakin cominciò a sparare a ripetizione con il suo fucile automatico, ci fu un'improvvisa reazione intorno alla piattaforma degli oratori e Voss cadde a terra. Dalla sua tenda un portoricano non identificato si gettò nella massa, colpì dei poliziotti, afferrò un fucile, si fece largo e cadde morto sotto i colpi di Harry Dakin. La sparatoria durò circa 30 secondi e quando il fumo si disperse, Dakin, Durst e gli altri maiali erano scappati come conigli. 4 uomini, il procuratore della zona Edward T. Manuel, un poliziotto di nome Eugene Reardon, il portoricano ed un compagno inglese non identificato giacevano morti. Moltissimi furono feriti, tra cui alcune donne. Finisce qui anche questa seconda puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata agli IWW. Alla prossima!